come hanno gridato al lupo, come hanno gridato tutto, come hanno gridato il mio, il tuo, questo, come hanno odiato ogni mio testo, hanno messo in eretto ciò che era storto e sottolineato in rosso ciò che era corretto, come hanno messo un trip dentro il mio whisky e hanno messo un farmaco dentro ogni mia astinenza, come hanno fatto vuoto in una stanza, hanno scritto basta dentro un letto che piangeva soltanto per me, dicono che io non ho parlato di lacrime nelle mie liriche, dicono che io non ho abusato di queste metriche, dicono che non sono le metriche, che sono magari cose sciatte venute da bocche sciatte, altrettanto sciatte, di parole altrettanto sciatte, e non è l'oscenità di queste scene che ci vede osceni dentro liriche diversi, profondi, che non saprete mai coniugare verbi con il cuore, ma con un abiro che vede soltanto una moneta e non un... Oh, adesso sì, dite sì signore, adesso sì, siete pietosi verso ciò che avete distrutto. Avete fatto di me un farabutto e di un nulla tenente un signore, dicendo che io avevo il denaro e invece avevo un abiro, un cuore in mano, spezzato in un reparto psichiatrico, incurato da un verme schifoso pieno di soldi. Sì, hai il talento di dire che, di dire che il cash basta, questa rima fa fracasso, fa una festa su un piano rotto. Eppure rimane qualcosa tra una pagina ombrosa, tra l'altra licorosa, tra una misteriosa vena di essere una musa insidiosa. E quindi zitta pure te, musa, che non conosci di chi abusa di una lirica per arrivare a un cuore muto e farlo taciuto come il mio, che non deve proferire parola, non deve osare oltre, perché non è la bruttezza che fa una signora o la sua bellezza, ma è un verso che spiazza, è una danza su una lirica, e non voglio citare quella mezza poesia di strada dove un cuore danza su una poesia di 400-500 anni fa, mentre una strada si invasa, si avanza. Sì, avanzo parole, ne butto contro chi contro me avanza. Tu sei su parabrezza, una macchina che d'improvviso sterza. E non venirmi addosso, non rincuorarmi, un rincuore che ho bevuto e che tu non conosci. E non conosci la mia vita, io ho 40 anni di sale tra le unghie, il sapore amaro di chi non finge, di chi è costretto a lacrimare di nascosto, e tu lo vuoi scritto su un verso, beh, io ne ho scritti a milioni con l'inchiostro.